Buongiorno a lei. Buongiorno. Professore, lei mi sa che non si è tanto ferrato sulla cucina delle alghe, però ci può dire tutto sulle alghe. Sì, beh, però prima bisogna fare una premessa necessaria. Bisogna ricordare che l'organismo umano non è capace di sintetizzare, cioè produrre, due acidi grassi che sono i capostipiti delle famiglie omega 3 e omega 6. Questo cosa significa? Significa che questi due acidi devono essere assunti con la dieta. Purtroppo la nostra dieta è sbilanciata, consumiamo più omega 6 che omega 3 e questo squilibrio comporta un maggiore rischio di malattie infiammatorie ed anche allergie. Perché quelli che fanno bene sono gli omega 3. Gli omega 3, bisogna che ci sia equilibrio, fanno bene anche gli omega 6, ma non bisogna avere un eccesso degli uni sugli altri, altrimenti si hanno gli inconvenienti che dicevo prima. Bisogna riequilibrare la situazione e quindi ecco che nella dieta bisogna introdurre alimenti ricchi di omega 3, come il pesce ad esempio, oppure noci, semi oleaginosi e così via. In questo ambito entrano molto bene anche le alghe. Difatti le alghe sono delle fonti ottimali di omega 3 a lunga catena, cioè quegli acidi finali degli omega 3. Il pesce che si nutre di alghe è ricco di omega 3 proprio perché le prende dalle alghe. Potremmo dire mangiamo pesce, sì, però purtroppo mangiamo poco pesce e a volte il pesce pescato non è così sicuro, soprattutto quelli di grande taglia perché contiene inquinanti ambientali, mentre il pesce allevato è povero di omega 3. Mi scusi professore, quindi gli omega 3 possiamo dire che ci sono, possiamo reperire da fonti animali e da fonti vegetali? Da fonti animali che sarebbe il pesce, da fonti vegetali che sono alcuni, ad esempio le noci contengono molto omega 3, oppure i semi di lino, i semi di rosa moscheta, oppure le alghe stesse. Le alghe stesse però rispetto alle fonti vegetali che ho citato prima hanno gli omega 3 finali e tra questi ne hanno uno importantissimo che prende il nome di DHA. Questo protegge l'occhio, si accumula difatti nella retina, riduce il rischio di patologie cardiovascolari, abbassa i trigliceridi nel sangue, allevia i sintomi dell'artrite reumatoide, migliora le funzioni cognitive negli anziani, quindi vede che ha delle notevoli proprietà. E questo dove si trova? Si trova molto abbondante proprio nelle alghe azzurre, microalghe azzurre. Quindi convertiamoci alle alghe, sì, professor Pietta? Direi che varrebbe la pena di consumare alghe oppure derivati dalle alghe, oli algali, che contengono questo DHA. Grazie professore, ci sentiamo domani per scoprire le ultime notizie che arrivano dal mondo della ricerca sulla natura. Grazie professore. Grazie a voi, buona giornata. E ringrazio chi ha ascoltato Essere Benessere, l'appuntamento come sempre torna domani alle 11 dopo il GR. Buona giornata da Nicoletta Carbone.